America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. You know, it is something that has occurred a few times over the course of my life, and you know, I'm aware of it and usually can avoid it. Hillary Clinton, l'avete sentita, conferma che insomma ha avuto in effetti dei malori, li ha avuti anche in passato, questa nell'ultima intervista che ha rilasciato. Poi, come avevamo detto anche nei giorni scorsi, si è fermata, è in convalescenza, sta cercando di rimettersi, e questo naturalmente, beh, che cosa ha prodotto? Beh, ha prodotto molto molto spazio per Donald Trump. Sentiamolo. Her comments displayed the same sense of arrogance that led her to violate federal law as Secretary of State. Hide and delete her emails. Ecco, Trump ha scelto di non attaccare direttamente Hillary Clinton sulla sua malattia. Questo era scontato. Persino uno come Trump, che sappiamo ama provocare, sapeva benissimo che dopo aver così sollevato alcuni dubbi sugli stati di salute di Hillary Clinton, non poteva poi attaccarla nel momento in cui stava male. Un gentiluomo, come Trump si considera, non attacca una donna malata. E dunque l'ha attaccata invece sul piano politico, perché in effetti Hillary Clinton aveva fatto uno scivolone qualche giorno fa, e cioè aveva detto che coloro che votano Donald Trump sono delle persone inadeguate. Addirittura aveva usato un termine provocatorio: miserabili, sono dei miserabili. Ecco, questa cosa non è stata accolta bene. Tu non puoi attaccare gli elettori che in un processo democratico scelgono di votare per questa persona o per quella persona. Naturalmente Trump ne ha approfittato, e nell'audio che ho fatto ascoltare ha detto: gli insulti verso i miei sostenitori dimostrano l'arroganza che ha spinto i Clinton ad usare un server privato di email mentre Hillary era segretario di Stato. Ecco, Trump piuttosto batte su questo, sull'opacità dei Clinton, non soltanto di Hillary ma anche di Bill, sul fatto che di loro non ci si può fidare, e ripete il suo slogan che ha fatto presa, cioè Crooked Hillary, cioè Hillary la corrotta, Hillary la persona di cui non possiamo fidarci. Ecco, perché vi faccio questo quadro? Perché, come sappiamo, insomma, per Hillary Clinton si è trattato di un brutto scivolone, non tanto per la questione della malattia quanto per il modo in cui ha gestito l'intera vicenda. Il risultato è che anche ieri abbiamo avuto dei sondaggi che confermano che i due a questo punto sono in un testa a testa. Il vantaggio di Hillary, secondo Real Clear Politics, che fa delle medie un po' di tutti i sondaggi, a questo punto del 2,4%, abbiamo Hillary a 45,8, Trump a 43,4. C'è anche un sondaggio del Los Angeles Times che dà in realtà Trump in avanti. Ecco, queste sono reazioni a caldo, sono reazioni che non fanno necessariamente tendenza, ma c'è una cosa che preoccupa i democratici, e cioè che Hillary stia perdendo il suo vantaggio soprattutto negli stati chiave, nell'Ohio, per esempio in Florida, e forse un pochino anche in Pennsylvania. Ecco, il quadro è davvero così negativo? Beh, ecco, secondo me no. Tutti continuano a battere su questo fatto, però oggi siamo ancora nel riflusso di quello che è successo domenica scorsa. In realtà la campagna di Hillary Clinton è già partita al contrattacco, e lo ha fatto, secondo me, con grande intelligenza. Cioè ha mandato avanti gli altri, ha mandato avanti i grandi notabili del partito che si sostituiscono a lei, che fanno campagna in sua vece, mentre lei sta cercando di rimettersi in forma per poter partecipare al dibattito del 26 ottobre. Ma i personaggi che sono intervenuti, beh, sono lì in prima fila: Barack Obama, Michelle Obama, Joe Biden, Bill Clinton, persino Bernie Sanders si è speso per difendere Hillary. Cominciamo dal presidente americano, che ieri è andato a Filadelfia. This is not reality TV. Democracy is not a spectator sport. Ecco, Obama all'attacco. Obama dice: questo non è un reality TV, la democrazia non è intrattenimento, è giunto il momento che io passi il testimone, e so che Hillary è la persona adatta a raccoglierlo, però ho bisogno che voi lavoriate duramente per Hillary, come avete fatto per me. Il gradimento, tra l'altro, di Barack Obama in questo momento è molto elevato, un gradimento del 58%, dunque il presidente porta con sé la forza della Casa Bianca, la forza di un presidente uscente, tutto sommato amato dalla popolazione, quantomeno per le cose che ha fatto sul piano interno. E lancia un affondo, sentiamo. Who isn't fit in any way, shape or form to represent this country abroad and be its commander in chief? Ecco, avete sentito il tono aggressivo, e dice: Trump non è adatto, non sarà mai adatto, non non ha né la forza né la sostanza per essere presidente degli Stati Uniti d'America. Ecco, un attacco duro naturalmente, ma lo sforzo è questo che mi ha colpito, che la campagna di Hillary Clinton sta reagendo, dimostra al paese che il partito è unito, dimostra di avere dietro di sé i più importanti personaggi del suo partito, coloro con cui si è scontrata, perché Hillary si è scontrata con Obama, si è scontrata con Joe Biden, mentre Trump ha rotto con il suo partito. Molti dei notabili rifiutano di appoggiarlo. Il governatore dell'Ohio, che aveva corso con lui, rifiuta di appoggiarlo, John Kasich. E dunque è questo che, in modo, come dire, sublimale, adesso i democratici stanno cercando di proiettare. Hillary, poverina, non sta bene, è malata, però ecco le ali d'attacco che la proteggono e che avanzano dietro di lei. Joe Biden è entrato in azione fin da lunedì a Charlotte, in North Carolina. Clinton, Bill Clinton, è andato in California, è andato in Nevada. Michelle Obama, Michelle Obama è un personaggio amatissimo. Bernie Sanders è sceso in campo ieri a Pittsburgh. Ecco, non si tratta di un'evoluzione politica secondaria. Direi che la possibilità di far vedere che il Partito Democratico, contrariamente a quello repubblicano, è unito, è anche un modo per consentire a Hillary di rispondere a distanza, di essere assente, ma di far vedere quanto sia forte lo stesso nel contesto del suo schieramento politico. Voglio chiudere brevemente perché Wall Street ha fatto di nuovo l'altalena, l'otto volante. Prima abbiamo visto forti rialzi dopo i commenti sui tassi di interesse di lunedì, ieri invece c'è stato un ribasso dovuto tecnicamente al petrolio, ma anche al quadro incerto politico. Il fatto che Hillary improvvisamente si sia trovata in difficoltà, non piace agli investitori. Per questo abbiamo visto una perdita dell'indice Dow Jones addirittura dell'1,41%. C'è però una buona notizia di nuovo per il campo democratico, cioè l'ufficio del censimento ha rivelato che l'anno scorso il tasso di povertà è calato, il reddito mediano è aumentato per la prima volta dal 2007, anche il reddito è aumentato del 5,2%, che è un record in 50 anni, e il reddito medio americano, sapete qual è? $56,500. Insomma, ci sono notizie tutto sommato positive anche sul fronte economico, anche questi sono dei punti di riferimento che aiuteranno Hillary a cercare di rilanciare la sua campagna in difficoltà. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Insomma, Hillary Clinton chiede aiuto, si è impappinata da sola, in qualche modo i suoi amici l'aiuto cercano di darglielo, e dunque ho scelto per oggi dei Beatles, Help. Aiuto. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me get New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!